Lettonia, in Polonia, in Ungheria, in Bulgaria, in Slovacchia, lo dicevo poco fa. Abbiamo trasferito cacciabombardieri in Polonia, abbiamo trasferito cacciabombardieri a Costanza in Romania, abbiamo trasferito buona parte delle unità navali nel Mediterraneo, di Kaliningrad, l'enclave russa tra la Polonia e le repubbliche baltiche, eccetera. Questo comporta una spesa finanziaria enorme. Vorrei ricordare che sul bilancio del 2022 abbiamo aumentato di quasi il 50% il numero dei militari trasferiti in missioni internazionali e abbiamo superato euro all'anno per le missioni internazionali. Buona parte, ve l'ho detto, sono missioni o nel continente africano perché per effetto domino c'è la guerra nei Balcani, ma anche se non c'è nessuna tensione mediatica, stanno accelerando processi di conflitto in Medio Oriente, lo sappiamo, vediamo la Turchia mano libera nelle operazioni di bombardamento sul popolo curdo in Siria, in Turchia, in Iraq, c'è stato un bombardamento ieri contro la popolazione curda, ma lo stesso si sta facendo nel continente africano, per cui stiamo accelerando la proiezione militare italiana, con un costo enorme. Ma dicevo, gli effetti, l'aver trasformato il nostro paese nella piattaforma avanzata per le operazioni di alimentazione del conflitto, non soltanto con le armi. Io non so quanti di noi sappiano che da basi militari dell'aeronautica italiana partono quotidianamente aerei di intelligence e di sorveglianza italiani, raggiungono il Mar Nero, raggiungono il confine con la Russia, i confini con l'Ucraina, raccolgono il maggior numero di informazioni, individuano gli obiettivi e trasmettono le informazioni alle forze armate ucraine che le utilizzano per portare avanti la controffensiva e alzare il livello del conflitto. Nonostante si sia bombardato mediaticamente questa guerra, sino ad oggi sono ignoti a tutti il numero dei morti civili e militari. Sui militari i dati al ribasso, che dovrebbero essere quelli più oggettivi, perché sapete che anche la guerra, parlo ovviamente a compagni che lavorano proprio questo tipo di controinformazione, eccetera, i dati più oggettivi parlano di 170.000 ragazzi tra russi e ucraini che hanno perso la vita in un anno e mezzo di conflitto. Stiamo parlando di persone che tra i 20 e i 30 anni. A cui voglio aggiungere un dato, generalmente si calcola che per ogni morto ci siano 4-5 persone che abbiano ricevuto traumi fisici e psicologici irrimediabili, cioè che se li porteranno per tutta la vita. Se sono 150.000, significa che noi abbiamo 600.000 ragazzi europei che per il resto della vita loro, le loro compagne, le mogli, i figli, eccetera, pagheranno e per i prossimi 20, 30 anni, 40 anni, gli effetti di questo conflitto, in termini di traumi psichiatrici, in termini di problematiche fisiche, eccetera. Questo per capire la dimensione di questo conflitto. I nostri aerei, gli aerei e l'aeronautica militare partono da Pisa, partono da Pratica di Mare, raggiungono, informano, forniscono le informazioni che accelerano l'escalation di questo conflitto. Io 2 giorni fa ho pubblicato su Pagina Esteri, trovate su internet, un articolo che cerca di ricostruire i sistemi di arma che sono stati inviati negli ultimi 3 mesi. Solo l'Unione Europea, da quando è scoppiato il conflitto, ha speso più di 70 miliardi di euro per alimentare questa guerra, come Unione Europea, non come paesi dell'Unione Europea. Poi, singolarmente, i paesi membri della NATO, i paesi membri dell'Unione Europea hanno alimentato con altri 5-6 miliardi. Il pacchetto di solo degli Stati Uniti ormai ha superato, con quei 50 invii che vi ho detto pacchetti, ha superato già i 50-60 miliardi di euro. Questo sta comportando questo conflitto, per non parlare che le ultime armi che stanno inviate sono 2 armi che dovrebbero essere, che sono state bandite dalle convenzioni internazionali, le famigerate bombe a grappolo, che le abbiamo viste sperimentare in Iraq, sono le bombe che ne lanci una e poi distruggi diffondono nell'ambiente, sia esplodendo, sia restando e diventando vere e proprie mine che possono stare per 20 anni, 30 anni e uccidere per i prossimi 30 anni. Le bombe all'uranio impoverito, utilizzate dalla prima guerra in Iraq, utilizzate nei Balcani, eccetera, e che soltanto nel nostro paese, in Italia, sperimentate nei poligoni in Sardegna o sperimentati durante la guerra in Kosovo, la guerra nei Balcani, hanno già prodotto migliaia di civili e migliaia di militari italiani che lottano con la leucemia o che sono morti di leucemia negli ultimi 30 anni. Questo per capire cosa sono gli effetti delle armi, al di là del loro costo economico, al di là del numero dei morti e dei feriti che producono, cosa comportano e che scenari di morte e di distruzione producono. Il nostro paese è direttamente coinvolto e non se ne parla assolutamente, ma soprattutto non si dice che c'è una base militare in Italia, in Sicilia, la base di Sigonella, che è la principale base utilizzata dalle forze armate statunitensi, dalle forze armate NATO, per le operazioni di intelligence, di sorveglianza e di fornitura delle informazioni chiave e strategiche alle forze armate. Non se ne parla in Italia. Se voi andate a controllare i verbali del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, ci sono le denunce della Russia dicendo: dalla Sicilia continuano a operare aerei NATO USA che forniscono informazioni fondamentali che sono servite all'Ucraina a effettuare operazioni di guerra che sono state strategiche, l'affondamento della nave ammiraglia, la Moscova, nel Mar Nero, pensate alla nave ammiraglia dell'Unione Sovietica, diventata la nave ammiraglia della Marina Russa, è stata la prima grande operazione di guerra del 14 aprile dello scorso anno, che è stata eseguita dalle forze armate ucraine con le informazioni chiave di un pattugliatore militare della Marina Militare statunitense decollato da Sigonella, che ha seguito tutte le operazioni, ha dato le informazioni. Pensate un po', in Italia non se ne è parlato assolutamente. In questo è scoppiato uno scandalo, tanto è stato lanciato per la prima volta dalla stampa britannica, dal Times, ripresa dalle Figaro in Francia, e poi è stata ripresa negli Stati Uniti d'America. La CNN ha chiamato le forze armate sono state costrette ad andare al congresso ad ammettere davanti ai congressisti: sì, abbiamo fatto partire un aereo, gli ucraini ci hanno chiesto più volte, ma sicuro che si tratta della Moscova? Noi gli abbiamo dato le informazioni, sì, vi possiamo garantire, oltre ad aver dato le coordinate, si tratta della Moscova, hanno bombardato, poi si sono giustificati perché sanno benissimo che questo significa una compartecipazione a un'operazione di guerra. Significa che non stai soltanto sostenendo il tuo partner militare a fare una guerra, tu stai facendo la guerra con le forze armate ucraine, con quello che ne comporta. Cioè, noi abbiamo oggi la Sicilia, piattaforma di guerra, che non è la piattaforma del Mediterraneo, ma è che è ormai una piattaforma nel Mar Nero, dove quotidianamente aerei, pattugliatori della Marina, droni di guerra della NATO, eccetera, fanno queste operazioni, che sono operazioni di co-belligeranza, anzi no, di co-belligeranza, di vera e propria belligeranza. Allora, io posso anche capire che uno ritenga che bisogna difendere la resistenza dell'Azov, tutte le cazzate che sentiamo dire, eccetera. Però una cosa è ritenere di poter sostenere un partner in guerra, una cosa è ritenere e negare il diritto di conoscenza, avere militarizzato l'informazione e impedire che i cittadini italiani sappiano che noi siamo direttamente coinvolti in guerra e che non ci dovremmo scandalizzare e stupire se in un'escalation, che è quella che voi sapete che è stato autorizzato il trasferimento dei cacciabombardieri F-16 all'Ucraina. I cacciabombardieri F-16 sono i cacciabombardieri già presenti in territorio italiano nella base di Aviano, che sono aerei che sono predisposti al trasporto e all'utilizzo di armi nucleari tattiche. Sono le armi nucleari che in Italia sono presenti nella base di Ghedi in provincia di Brescia e nella base di Aviano, che soltanto sono state aggiornate negli anni scorsi e che hanno oggi la funzione di poter essere localizzate. Nella follia delle guerre si ritiene che invece di far scoppiare una guerra nucleare globale e portare alla distruzione del pianeta, io possa localizzare magari nella pianura in Ucraina una guerra, lanciare armi tattiche che vanno in profondità, che magari non sprigionano enormi quantità di radioattività, sono bombe nucleari tra 0,5 kiloton e 50 kiloton, per renderci conto 12 kiloton è la bomba di Hiroshima, per cui possono anche essere 24 volte meno potenti dal punto di vista esplosivo della bomba di Hiroshima, ma possono penetrare in profondità e disperdere quantità. Ecco, questa follia, questa escalation, noi l'abbiamo sentito più volte la minaccia da ambo le parti della guerra nucleare tattica, localizzata, eccetera. Questa è una strategia che viene ritenuta. E l'Italia, in questo momento, con questo processo e questo percorso, sta favorendo. Ovviamente ci sono effetti, che non è soltanto il coinvolgimento del nostro paese nella belligeranza e pertanto il fatto che sei piattaforma di morte puoi essere anche l'obiettivo pagante strategico in caso di contrattacco. Questo sta portando all'accelerazione di una serie di processi, di progetti militari sui territori italiani, come non era mai successo neanche durante la guerra fredda. Non c'è regione del nostro paese, dal Piemonte, ovviamente, alla Sardegna e alla Sicilia, che sapete storicamente, dal punto di vista geostrategico, sono le regioni più militarizzate che ci abbiamo nel nostro paese, non c'è regione che non sia sottoposta a processi di riarmo e di militarizzazione. Penso alla città di Torino, che sperava dopo la fine del modello Fiat, di riguadagnare un modello diverso, di costruire rapporto col territorio, disintossicandolo, creando spazi di socialità, eccetera. Oggi vede un pezzo importante degli ex stabilimenti della Fiat, le officine di riparazione, eccetera, con la possibilità che vengano convertite in una cittadella aerospaziale sotto l'egida della ricerca militare della NATO, in un progetto di realizzazioni di start-up, eccetera, che lavorino fianco a fianco con l'Alleanza Atlantica e col Politecnico di Torino per costruire nuovi sistemi di distruzione di morte. Pertanto, riproducendo il modello israeliano, aziende militari, servizi segreti, forze armate, mondo accademico e università che operano insieme, non c'è più la linea di demarcazione quando finisce l'università, quando finiscono i servizi, inizia il Mossad, ma sono tutti lo stesso soggetto che operano in un modello che è il modello israeliano, non soltanto dal punto di vista produttivo, ma è un modello in cui si è militari dalla culla alla morte, in cui devi combattere il tuo nemico esterno e il tuo nemico interno che c'hai a casa tua, giorno per giorno, militarizzando il territorio, militarizzando la società, creando un modello di società repressiva, militare e bellicista. Ok? Torino è il laboratorio sperimentale per riprodurre questo modello. Ovviamente attorno a Torino significherà, perché attorno a Torino c'è l'area lombarda, c'è l'area ligure, dove ci sono tutta una serie di aziende, di start-up, di università che già cooperano col complesso militare industriale. Pensiamo alla provincia di Brescia, pensiamo alla provincia di Varese, con tutti gli stabilimenti del gruppo Leonardo, eccetera, che non potranno che avere un'accelerazione dal punto di vista della riconversione dell'economia e della produzione in funzione bellica. Ovviamente con occupazione pari a zero, perché questo lo voglio dire, ancora c'è chi ritiene nel mondo sindacale che non bisogna fare discussioni sul complesso militare industriale perché questo comporta un attacco al lavoro. Questa è la più grossa, sarebbe il caso che iniziassimo a lavorare anche nella controinformazione per dimostrare che stanno decuplicando i fatturati del complesso militare industriale, gli azionisti moltiplicano per 10 i loro dividendi, ma il numero di addetti il numero di chi lavora all'interno di queste industrie si riduce sempre di più e soprattutto la qualità del lavoro è sempre più un lavoro precario, sempre un lavoro sottopagato, si va sempre in subcommessa. Per cui anche questo tabù che non va toccato, che non dobbiamo parlare male del complesso militare industriale perché comunque produce lavoro, produce occupazione, eccetera, andrebbe sminuito, perché questo modello è un modello funzionale alle transnazionali, all'arricchimento di un modello liberista che produce fatturati, moltiplica i dividendi per gli azionisti, ma espelle sempre maggior numero di lavoratori. Tra l'altro il complesso militare industriale italiano in particolare, Leonardo e Fincantieri, hanno il merito di aver esternalizzato o di aver precarizzato il lavoro molto prima di altri gruppi industriali. Leonardo fa affari, Leonardo è il decimo paese, è la decima azienda mondiale come fatturato e come export militare, ma voi vedete che gli addetti si sono ridotti a nulla e che soprattutto le produzioni di Leonardo vanno nei paesi clienti. Gli Stati Uniti sono diventati, lo sapete, nel 2022 gli Stati Uniti sono stati il secondo paese cliente delle industrie militari italiane. Questo anche per dire che dobbiamo anche cambiare il rapporto tra noi e gli Stati Uniti. Spesso sento dire: ah, abbiamo perso la guerra mondiale, gli Stati Uniti decidono in Italia quello che facciamo. Diciamo che ormai c'è una classe dirigente politica nel nostro paese che accetta che gli americani facciano quello che vogliono nel nostro paese, regala gli scemi, regala il MUOS, regala, converte ampi territori in basi militari, perché comunque poi negli Stati Uniti c'ha il tappetino rosso per fare affari. Però gli Stati Uniti impongono a Leonardo e Fincantieri, nel momento in cui comprano armi italiane, che le armi italiane si facciano negli Stati Uniti d'America. Per cui questo lo dico perché sarebbe anche il caso di smetterla di accettare questo ricatto da parte dei sindacati. Non parliamo di questo perché sennò facciamo un attacco ai lavoratori del nostro paese. È falso, i lavoratori hanno già pagato duramente nelle industrie militari in termini di salari, in termini di sfruttamento e in termini anche dal punto di vista di rischi enormi alla salute per i lavori che fanno. La regione Veneto-Friulana. Questa guerra ha ulteriormente accelerato processi che avevamo già visto. Noi sappiamo Vicenza, città di un alto valore artistico, eccetera, convertita nella principale base dell'esercito statunitense in Europa. Questa guerra ha accelerato i processi di potenziamento e di rafforzamento anche dal punto di vista infrastrutturale. Stanno passando progetti di tipo passanti ferroviario, autostradale, eccetera, perché bisogna garantire la mobilità tra la base di Vicenza, anzi la città di Vicenza, che non so, la base militare, e la base di Aviano, che è l'aeroporto di proiezione della 173esima brigata aviotrasportata, che in questo momento è il reparto d'eccellenza dell'esercito statunitense in Est Europa. È quello che sta addestrando, anzi le addestra dal 2014, le forze armate ucraine, compresa la Guardia Nazionale col battaglione Azov, quello neonazista, al proprio interno, e che oggi è dislocato e che sta facendo proprio le operazioni fondamentali in questa escalation di guerra. Gli aerei partono, gli aerei cargo con le armi e con la brigata partono da Aviano. Questo comporta l'accelerazione e il potenziamento dell'aeroporto di Aviano e soprattutto nuovi progetti. In questo momento si sta ritrasformando dal punto di vista, stanno aumentando il numero delle palazzine e delle villette a disposizione del personale armato statunitense a Vicenza. È in atto un progetto di 450 milioni di euro, ovviamente con cubature spaventose, pertanto ulteriormente imponendo un modello devastante dal punto di vista urbanistico in una città che è un gioiello dal punto di vista. La Puglia è una regione che soprattutto negli ultimi mesi ha rivisto rilanciati progetti spaventosi. Amendola in provincia di Foggia, Galatina in provincia di Lecce, la base di Taranto, la base di Brindisi, dove c'è tra l'altro la brigata dei Marò e che in questo momento si addestra costantemente con le forze armate statunitensi perché è un reparto di eccellenza. Ecco, questo sta portando all'aumento della pressione militare su quest'area. Penso che non sia casuale che il G7 nel 2014 tocca purtroppo la rotazione nuovamente in Italia, Non è un caso che andrà il supervertice dei sette padroni del mondo, si farà in provincia di Brindisi, ovviamente accelerando ulteriormente i processi di riarmo e di militarizzazione. Una regione come la Toscana, una regione che è culla della cultura, dell'arte, della storia, eccetera, che invece negli ultimi anni ha visto un ulteriore processo di accelerazione, aveva già la più grande base dell'esercito, il più grande deposito dell'esercito statunitense nel sud Europa, Camp Derby, ha avuto già un ulteriore potenziamento dell'aeroporto di Pisa, che lo voglio ricordare, è uno dei principali aeroporti di Ryanair in Europa, ma è un aeroporto militare aperto al traffico civile. Per cui in qualsiasi momento, come è successo in Sicilia nel 2011 con la guerra in Libia, può essere chiuso al traffico aereo civile e diventare un aeroporto militare. Tra l'altro l'aeroporto di Pisa, lo dicevo, più volte è stato coinvolto nel trasferimento di armi e, se ricorderete, grazie ai lavoratori della logistica dell'aeroporto di Pisa, si scoprì che venivano impacchettate con aiuti militari all'Ucraina armi che invece andavano per il conflitto in Ucraina. Pertanto è un aeroporto in questo senso avanzato. Voi sapete questa tragedia di voler regalare 72 ettari di un parco nazionale a Pisa, a Coltano, per trasformarlo in un hub logistico per l'arma dei carabinieri. Anche su questo i compagni di Pisa del No Base Coltano sono stati bravi a documentare e denunciare che questi carabinieri non sono i carabinieri che conosciamo nelle telenovelas italiane, il maresciallo Rocca, per cui questo padre che aiuta i figli e cerca di dirimere in modo non violento i conflitti con un cuore enorme verso il disagio sociale. No, ecco l'arma dei carabinieri che da 40 anni col battaglione Tuscani è presente in tutti gli scenari di guerra ad addestrare le forze armate, le forze di polizia e più criminali in Medio Oriente, nel continente africano, che non ha mai pagato per i crimini commessi in Somalia nel 1992. Voi siete giovani, ma chi è vecchio ricorda le foto delle donne stuprate all'interno della brigata, nei camioncini della brigata Folgore e del battaglione Tuscania. Quelli un po' meno giovani forse ricorderanno Abu Ghraib, i crimini commessi dall'esercito statunitense nel lager con la popolazione irachena, le torture con l'elettricità. Se voglio fare l'avvocato del diavolo, quei ragazzi statunitensi non hanno inventato nulla a Abu Ghraib. Quelle foto, le pose dei ragazzi torturati erano già state fatte dal battaglione Tuscani e dal battaglione della Folgore in Somalia. La sperimentazione massiccia. Dovreste leggere come torturavano i ragazzi somali con l'assistenza dei medici, spiegando come dove era meglio mettere gli elettrodi per far soffrire maggiormente. Queste cose, per dirlo a onore del bene, noi tranquillamente vogliamo regalare 70 ettari di parco a questi che hanno commesso e che continuano a commettere, e il battaglione avanzato di trasporto. Ovviamente la Sardegna che continua a essere il territorio dove un terzo della superficie è devoluta alle esercitazioni militari, non soltanto delle forze armate italiane, non soltanto delle forze armate NATO, ma di Israele, delle petrocanaglie, l'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi, il Qatar, che si addestrano costantemente nei poligoni della Sardegna, devastando un territorio. Questi processi si sono ulteriormente accelerati. Dimenticavo Firenze. Firenze è convertita ad ospitare la divisione del Podio Veneto, che è stata integrata nelle forze di pronto intervento della NATO, da cui dipendono ormai le principali brigate di pronto intervento dell'esercito, schierate storicamente in Friuli Venezia Giulia, ma che sono le truppe di elite in questo momento presenti nei paesi dell'est Europa, di cui vi dicevo all'inizio. Ebbene, il comando un comando che di fatto assumerà un ruolo nelle nuove strategie di pronto intervento della NATO, insediato nella città di Firenze, a cui si aggiunge il laboratorio di Livorno, questo porto sempre più militarizzato, e guarda caso questi processi si sviluppano parallelamente alla trasformazione esattamente di quei territori che vi ho detto, Trieste, Taranto, Brindisi, La Spezia, Livorno, Augusta in Sicilia, Porto Empedocle in Sicilia, punto interrogativo per quello che può essere il futuro di Gioia Tauro, diventano il ruolo dove si sperimentano le politiche delle trasformazioni, delle riconversioni energetiche, ossia i rigassificatori, ossia questa conversione pesantissima dell'energia. Se voi mettete le bandierine di questi progetti militari alle bandierine dove vengono presentate le grandi opere in funzione della riconversione energetica del nostro paese, se non combaciano, di fatto si condividono. Questi sono, e guardate caso che questi progetti come il gas, il GNL, il gas, sono stati rilanciati esattamente come conseguenza geostrategica della guerra in Ucraina, di cui ovviamente chiudiamo col gas russo, ci affidiamo ad altri regimi che penso che non abbiano niente da imparare in termini di diritti umani da Putin, eccetera. Penso al Qatar, che è diventato il principale esportatore di GNL, e questo spiega come mai abbiamo tenuto 700 militari italiani per 6 mesi in Qatar a garantire la difesa del campionato mondiale di calcio, a cui l'Italia è stata ignobilmente esclusa. Ci andavamo perché ovviamente è il nostro principale partner in questo modello del gas naturale liquido. E oggi la riconversione delle spese militari, la riconversione e dunque puntare tutto a una marina mediterranea, oggi si usa nelle condizioni strategiche quella del Mediterraneo allargato. Il Mediterraneo allargato oggi, secondo gli strateghi italiani, per cui dobbiamo investire sempre più risorse finanziarie in spese militari, nel rafforzamento dell'apparato militare, nella sua capacità di proiezione, nel rafforzamento delle basi militari per garantire questa accelerazione, parte dall'Oceano Atlantico e raggiunge il sud-est asiatico, raggiunge il Mar del Giappone, raggiunge l'India, eccetera. Raggiunge ovviamente il Sudafrica, raggiunge l'Oceano Artico, dove si gioca un'altra partita strategica, e allora chiaramente il nostro paese è chiamato, le classi dirigenti, le classi economiche dirigenti di questo paese sono chiamate a cambiare l'economia, la struttura e i territori. Da qui, a effetto traino, le grandi opere inutili, principalmente quelle delle cosiddette alta velocità ferroviaria, fondamentali nei processi di mobilità militare, perché lo sappiamo che è inutile il TAV tra Parigi e Lione, sappiamo quanto siano inutili e devastanti i passanti nel nord-est d'Italia, però se vogliamo ragionare in termini dal punto di vista militari sono fondamentali, perché bisogna accelerare la capacità di trasporto delle unità militari e degli apparati militari da quello che è l'Europa occidentale, da quelle che sono le basi strategiche, quelle che vi dicevo in Toscana, dal Veneto, dal Friuli, eccetera, rispetto l'Est Europa. Io non so quanti di voi sappiano che da quando è scoppiata la guerra in Ucraina l'Unione Europea ha varato 2 provvedimenti che sono strategici nel cambiamento stesso delle dinamiche economiche e infrastrutturali del nostro continente. La prima ha stanziato 1,5 miliardi per migliorare le reti viarie, infrastrutturali, portuali, aeroportuali dell'Unione Europea, per eliminare quei gap che non le consentono di essere funzionali alle operazioni di guerra. Per la mobilità militare, per migliorare la capacità di proiezione militare delle reti ferroviarie, portuali, eccetera, l'Unione Europea ha messo in campo oltre 70 miliardi, di cui dicevo all'inizio, 1,5 miliardi. Seconda cosa, l'Unione Europea ha varato una norma che da ora in poi le macro regioni, le micro regioni, gli enti locali, eccetera, che vogliono accedere ai fondi europei per migliorare le proprie reti infrastrutturali, dovranno garantire che queste reti siano dual, cioè siano funzionali alla mobilità delle persone e delle merci, ma siano soprattutto funzionali alla mobilità militare nella proiezione tra ovest e est, perché l'asse verso Kiev diventa l'asse geostrategico fondamentale per la mobilità merci, uomini, soldi e ovviamente militari. Questo, tra virgolette, comporta che se la piccola subregione ha bisogno di migliorare la rete ferroviaria, non per l'alta velocità delle transnazionali, ma per garantire il diritto alla mobilità, ma quella rete ovviamente è fuori dalle logiche di proiezione militare, l'Unione Europea non darà un centesimo, per cui immaginate il Sud Italia fuori dalle logiche delle basi militari strategiche del Sud Italia, che possibilità. Ecco, questi sono i processi, anche gli effetti devastanti sulla militarizzazione. Un effetto potrebbe andare quello devastante sulla cultura e sulla società italiana. Cioè, non so quanto siamo stati attenti, ma come sono cambiati anche i modelli culturali, come sono state cambiate le parole, come è cambiata la pubblicità in questi 2 anni. Quanto si stia investendo sul modello della guerra, sul modello militare, nei contenuti anche televisivi, aumentano, cioè non c'è evento sportivo, non c'è Sanremo in cui nella giornata clou non ci sia il coro dell'aeronautica, il coro degli alpini, il coro dell'esercito, non c'è evento sportivo che non si chiuda con le forze armate, non c'è ormai anche quei noiosissimi, fortuna non li vedono i giovani, ma non c'è evento in cui non si parli di forze armate, in cui non ci sia una scusa, il 100° anniversario dell'aeronautica militare. Domani ci saranno 70 gare podistiche all'interno di basi militari che non vengono aperte mai alle popolazioni civili, dove andranno anche gli atleti della federazione, potranno gareggiare anche i non atleti. In un modello, pensateci un po', aver cambiato la storia, 100 anni di aeronautica militare italiana. Ma noi siamo stati la prima aeronautica a bombardare le popolazioni civili. Prima che venisse bombardata Guernica, avevamo bombardato con l'operazione Condor la settimana prima nei Paesi Baschi, prima che lo facessero i nazisti. I nazisti sono passati alla storia per il quadro di Picasso, noi l'abbiamo fatta franca. I crimini che ha commesso l'Italia, siamo stati il primo paese a bombardare, siamo stati condannati dalla società lenzuolo a bombardare sulle popolazioni civili con l'iprite, con i gas chimici, in Eritrea, in Etiopia, in Libia. Prima aeronautica militare al mondo nella sua storia. Ho scoperto, io non lo sapevo. Prima degli israeliani. Ma sapete chi ha bombardato il popolo palestinese? Chi ha fatto le prime vittime tra i bambini palestinesi? Prima degli israeliani. L'abbiamo fatto noi nel 40, abbiamo bombardato Gerusalemme, ci sono le foto su internet degli archivi storici di quello che abbiamo commesso anche in Palestina. Ma le guerre, i bombardamenti in ex Jugoslavia, i bombardamenti in Libia dall'Italia, gli italiani hanno bombardato, il 70% dei bombardamenti l'ha compiuta l'aeronautica militare italiana. Questi sono i crimini che ha compiuto. E noi abbiamo festeggiato, abbiamo permesso che ci sia stata, non c'è stata città, è stata militarizzata Roma, Piazza del Popolo, per una settimana. Con i cacciabombardieri, anche il bombardiere F-35, messo lì con i bambini che andavano a farsi le foto, militarizzando la cultura, rendendo pensabile e possibile che la guerra è l'unico strumento di risoluzione delle controversie internazionali. Questo è passato nella cultura. Passato talmente tanto che un'azienda, che non è certamente un'azienda che si è caratterizzata per il suo bellicismo, è un'azienda che c'è un codice etico molto rigido rispetto alla manodopera, rispetto la provenienza dei tessuti, e che ha lanciato la campagna in vista dell'inizio dell'anno scolastico 2023-24, promuovendo gli zainetti della Folgore, degli alpini e dell'esercito italiano, con una parola d'ordine: studenti sempre in missione. Questo per dire che se lo fa evidentemente perché ha fatto uno studio di mercato che ritiene che non si scandalizzi nessuno e che anzi la preziosi. Giochi preziosi, giochi pericolosi. Questo per capire, però dico, se lo fa un'azienda del genere perché evidentemente ci ha fatto uno studio 6 mesi per capire che quel tipo di messaggio è un messaggio che paga, perché evidentemente oggi i bambini, le bambine e i bambini, di fronte all'assenza di una proiezione, di una protezione da parte del mondo della scuola, del mondo degli insegnanti, del mondo dei genitori, sono tranquillamente un mercato, un cliente sensibile alla cultura delle forze armate. Io non so quanti di voi sappiano che ci sono stati una 50 di campi estivi con gli alpini per i ragazzini dai 12-13 anni in su, in cui venivano riprodotti i modelli militari. È in discussione in questo momento la riproduzione della guerra, della festa nazionale del 4 novembre, già passata al Senato, deve passare alla Camera. Festa dell'unità italiana, festa delle forze armate, in cui all'articolo 3 si dice chiaramente che il target principale sono le scuole, dove è già stata narrata la Prima Guerra Mondiale come la guerra dell'eroismo, come la guerra della nazione, la guerra dell'identità nazionale, la guerra in cui abbiamo ricostruito l'unità d'Italia, in cui vengono riprodotti i valori, nazione, bandiera, identità nazionale, in una scuola in cui a un bambino su 4 viene negata la cittadinanza italiana, nonostante siano bambini nati in territorio italiano, che mangiano italiano, che parlano italiano e che a 18 anni dovranno inginocchiarsi e chiedere il favore di diventare cittadini italiani. Però loro devono mettersi, lo scorso anno, in decine di scuole italiane, dal Val d'Aosta sino a Lampedusa, il primo giorno di scuola è stato festeggiato con i bambini la mano sul petto accanto alle forze armate con l'alza bandiera cantando l'inno nazionale italiano. Cose per la mia generazione, io ho 62 anni, erano inimmaginabili, ok? Non inimmaginabili, erano impensabili. Se solo fossero state proposte, e la mia scuola è una scuola in cui a 17 anni facevamo le lotte perché eravamo negli anni 70 per una trasformazione democratica. Oggi invece queste cose sono nella normalizzazione. E chiudo sulla questione di quello che è il processo di militarizzazione dell'istruzione, delle scuole di ogni ordine e grado, con una penetrazione delle forze armate italiane, NATO e statunitensi, in cui ormai occupano tutte le scienze e tutte le attività possibili. Non c'è giornata in cui i bambini non vengano portati nelle basi militari a giocare con i cacciabombardieri, con i sottomarini anche nucleari. Non c'è giornata in cui le forze armate italiane e straniere non entrino nelle scuole a fare cittadinanza, legalità, storia, geografia, bullismo, cyberbullismo, educazione fisica, eccetera. Insegnante di educazione fisica, lo scorso anno i compagni toscani, capite allora quanto poi le militarizzazioni del territorio accelerano processi anche di militarizzazione dello sport e della cultura, mi chiamano: Antonio, ma che ne sai della ginnastica dinamica militare italiana? Ginnastica dinamica militare italiana? Cioè, mai sentita nominare? Cioè entro, inorridisco, entrate sul sito, riconosciuta dal CONI, non casualmente secondo me nata nel Bresciano, ma che ormai si è diffusa a macchia d'olio in tutto il centro-nord, in tutto il centro-nord d'Italia, che già inizia a proiettarsi verso la Puglia, eccetera, in cui è una ginnastica dinamica militare perché riproduce esattamente le modalità con cui venivano addestrata la Jugend, i giovani di 15-16 anni nella Germania, per poi essere mandati al massacro della Seconda Guerra Mondiale, in cui c'è uno che fa gli ordini come i Marines statunitensi urlando, e in cui singolarmente non si è nessuno perché bisogna lavorare collettivamente in 100-150 all'unisono, riproducendo lo stesso modello, lo stesso meccanismo, lo stesso movimento, perché se sbagli sei una merda, perché hai rimesso in discussione il senso di gruppo. Se invece ce lo fai sei un uomo, sei una donna, sei un pezzo importante. Pensate che modello culturale la gente fa, e le scuole, insegnanti di educazione fisica fanno questo nelle attività sportive, intere palestre delle scuole sono state aperte a questo modello. Questo è il processo. In questo momento stanno per iniziare i mondiali di rugby. Io vorrei ricordare che le forze e che la nazionale di rugby, tanto il rugby è uno sport che proprio per sé è stato sempre uno sport con una penetrazione fascista, ma con una penetrazione enorme antifascista. Ci sono state scuole di rugby antifasciste, di collettivi sociali, di centri sociali, che hanno ritenuto un modello sportivo fondamentale soprattutto. Bene, sapete come si sono preparati, come hanno fatto la preparazione invernale la nazionale di rugby? È andato dal reparto speciale degli alpini, riproducendo modelli di addestramento alla guerra degli alpini, chiudendosi all'interno di una base militare degli alpini, in cui gli alpini hanno dettato l'agenda dall'alba al tramonto delle attività. Se voi entrate nel sito della Federazione Italiana Rugby, vi spiega che quel modello è fondamentale per costruire il senso di appartenenza e dunque la capacità di riproporre nello sport quel modello che hai mutuato da una truppa d'eccellenza come quella delle Forze Armate. Questo sta avvenendo nel nostro paese. Chiudo veramente perché è giusto anche per i compagni calabresi, perché c'è un problema che riguarda il ponte e il militare. È passato erroneamente dai media il fatto che il ponte sarebbe voluto dalla NATO. E molti hanno riprodotto questa. La NATO vuole il ponte sullo stretto, come se non ci bastasse Salvini in merda e tutto il resto che punta le lobby criminali e mafiose su questa grande opera. Ora, su questo bisogna fare chiarezza. Allora, l'unico documento, ed è una cosa gravissima, è la relazione con cui il governo Meloni e Salvini ha presentato al Parlamento la richiesta di riproposizione del ponte sullo stretto e di rimessa in vita della società Stretto di Messina. Alla pagina 1 di questa relazione, prima di giustificare il ponte come modello ecosostenibile, come modello per lo sviluppo, come modello per sollevare le sorti del sud, come modello di cultura, eccetera, dice testualmente: il ponte è un'opera strategica dal punto di vista militare perché favorisce la mobilità militare tra le basi militari presenti nel sud Italia e la Sicilia. E poi dice tutto il resto. Questa è l'unica cosa, non c'è documento ovviamente della NATO, delle Forze Armate, eccetera, che invece ritenga che sia vera questa cosa. A noi che abbiamo tentato di studiare questa cosa, se da una parte abbiamo denunciato come una ignobile farsa da parte di questo governo che si è riuscita a inventare, che è uscito questo coniglio dal cappello per giustificare il ponte, però attenzione perché questa cosa comunque deve metterci in profondo allarme, perché può significare altro. Tanto può significare che se io dichiaro di rilevanza strategico-militare il ponte sullo stretto di Messina, significa che tutto quello che riguarda le aree geografiche che incidono sia sulla realizzazione del ponte, per chi non è di qua, il ponte è una struttura, ma l'opera investe in un'area di centinaia di chilometri, perché ci saranno decine di chilometri le gallerie che andranno scavate per le linee ferroviarie per collegare, delle linee autostradali, saranno altre le province dove faranno le discariche per milioni di inerti, per cui le aree geografiche investite per la realizzazione del ponte non è l'area di fronte tra Cannitello da questa parte e Capopeloro dall'altra. Per cui dichiarare l'opera strategica potrebbe significare che dichiari di rilevanza strategico-militare un'area molto più enorme, e dunque questo ti consente la militarizzazione di diritto e di fatto di queste aree. andiamo in Valsusa per capire cosa ha significato in 18 anni di militarizzazione di un'opera che non c'è, non è stato fatto un metro di buco in galleria, però sono centinaia i compagni che hanno pagato in carne propria, in termini di galera, in termini di militarizzazione, in termini di limitazione di spazi di agibilità e in spazi di opposizione e di resistenza. Per cui attenzione che già mettere questo, che è un falso, però può prefigurare la repressione, accelerare la repressione e ridurre il più possibile gli spazi di agibilità e di opposizione alla grande opera. Chi è stato a luglio al Festival della Felicità in Valsusa sa cosa significa potersi inventare, poter impedire qualsiasi tipo di manifestazione, come ha fatto il prefetto di Torino, in una logica fuori, aberrante dal punto di vista giuridico, e mi dispiace che l'abbia denunciato soltanto Amnesty International, cioè non ha denunciato nessuna forza politica e sociale del nostro paese sindacale, che un prefetto si possa vietare qualsiasi tipo di iniziativa politica nei ridossi dei cantieri, con l'analisi che c'è un festival, come potrebbe essere il festival qua, che ci sono persone in questo festival, che questo festival è soltanto una copertura di un centro sociale che vuole fare un attacco allo Stato e un attacco a una grande opera. Ergo, nessuno ha diritto a manifestare la propria opposizione, il proprio rifiuto a questa grande opera. Chi lo fa si assume la responsabilità civile e penale di quello che comporta, ossia violenza, repressione, la gasificazione che è stata fatta durante quel festival, centinaia di proiettili di gas vietato dalle convenzioni di Ginevra, anche su questo ce lo ricorda sempre Amnesty International. Ormai io lo so che le nuove generazioni sono abituate a beccarsi i gas a ogni manifestazione, a ritenere che faccia parte del gioco delle parti. Lo Stato è questo, lo Stato, le forze di polizia utilizzano i gas. Quei gas sono vietati, non li puoi utilizzare in guerra, perché sennò violi la convenzione di Ginevra, però all'interno degli stati il potere lo può esercitare contro i cittadini del paese degli stati. Una cosa aberrante dal punto di vista del diritto, però questo è considerato normale, per cui possiamo tranquillamente gasare i bambini, le donne, gli anziani, eccetera, in una manifestazione. Allora, c'è questa cosa che dovrebbe preoccupare profondamente in Napoli. La seconda cosa è che invece dobbiamo avere anche la capacità di, come potrei dire, di ribaltare, è che sì, guardate, compagni e compagni, esiste un problema militare per il ponte sullo stretto di Messina, ma non perché lo diciamo noi, ma perché lo dicono le stesse forze armate. Sono stati prodotti 700-600 milioni di progetti, di euro di progetti. Ancora è stato negato di sapere qual è la valutazione delle forze armate rispetto alla sostenibilità militare del ponte, che è obbligo, qualsiasi rete infrastrutturale richiede una relazione delle forze armate che dica quest'opera è sostenibile dal punto di vista militare, non perché dà la mobilità, ma perché se c'è una guerra, se c'è un conflitto, se c'è un attentato terroristico, è un'opera che riesce a sopravvivere o che comunque non crea problemi. Non c'è traccia di questo. Al contrario, abbiamo trovato un documento dell'esercito della seconda metà degli anni Ottanta che diceva, analizzava tutte le opzioni, il ponte, la galleria, il tunnel, non si facesse niente, e in cui l'esercito diceva il ponte è sicuramente tra le opere di collegamento stabile è l'opera meno difendibile, perché diventerebbe l'obiettivo strategico più pagante in tutto il continente europeo, perché diventerebbe un simbolo. Del resto ci hanno propinato il ponte come l'ottava meraviglia del mondo, chi farà il ponte passerà alla storia perché va contro le leggi della natura, contro le leggi della fisica, contro le leggi dell'ingegneria, contro le leggi dell'economia, diventa il padre eterno. E allora se riesco a essere il padre eterno, ovviamente in caso di conflitto non vado a bombardare Scilla, non vado a bombardare Firenze, vado a bombardare il ponte sullo stretto, perché dal punto di vista dell'immaginario, dal punto di vista simbolico, vi è l'obiettivo. Questo scriveva l'esercito. L'esercito aggiungeva, per cui il ponte per noi non è difendibile. Se proprio dovete farlo, allora se pensate che proprio dovete fare il ponte, allora dovete mettere sul piatto che la difendibilità, tra virgolette, del ponte comporta necessariamente il rafforzamento, il potenziamento del dispositivo militare in quest'area geografica. Significa, faceva l'elenco, significa cacciabombardieri, significa batterie missilistiche, significa mettere l'esercito in un'area geografica difesa, non soltanto del, come ci propongono, non soltanto per realizzare il ponte, ma anche quando il ponte sarà realizzato, l'esercito a monte e l'esercito a valle. Significa rafforzare la presenza navale dei sottomarini in quest'area. Dunque significa aumentare la pressione militare in un'area geografica, quella della Calabria e della Sicilia, che già ha subito un enorme processo di riarmo e di militarizzazione. L'esercito diceva, chiudeva, guardate che questo comporta non soltanto un onere militare, un onere finanziario enorme. E mettevano le mani avanti. Dicevano, certo, non è che ciò potete far pagare a noi. Cioè, non è che se decidete di fare il ponte sullo stretto, tutte queste infrastrutture militari le trasferiamo da parte loro. No, dovete trovare le risorse finanziarie per garantire che questo processo di militarizzazione e di difendibilità abbia le sue risorse. E sapete quanto le stimavano nella seconda metà degli anni Ottanta? Stimavano, a quel tempo il ponte era 3.000 miliardi di vecchie lire, 1,5 miliardi, oggi stimano tra i 15 e i 17 miliardi, e diceva probabilmente ce ne vuole altrettanto. Questo significa che i 17 miliardi, almeno facevo la battuta poco fa, una batteria missilistica come SAMP o come Patriot, che è il minimo che venga utilizzata, e che dovresti metterne una da una parte, una dall'altra, una all'imbocco dello stretto, l'altra dall'altra parte, nella zona ionica, cioè significa già 2 miliardi la batteria missilistica. Queste sono risorse finanziarie che ovviamente su questo noi più volte abbiamo chiesto in questi, cioè non ora, dico più volte, di sapere, ma esiste una valutazione militare del ponte sullo stretto? Esiste una valutazione finanziaria dei costi militari? E soprattutto, abbiamo mai detto alle popolazioni calabresi e siciliane, che già sopportano un processo di riarmo e di vitalizzazione insostenibile, se sono disponibili, oltre alle devastazioni socio-ambientali ed economiche di questa infrastruttura e delle opere complementari, si facciano anche carico dell'onere finanziario e dell'onere del processo di vitalizzazione? Io penso che se la gente dovesse sapere che avremmo l'esercito ulteriormente in tutto il distrutto della Calabria, oltre alle batterie missilistiche, cacciabombardieri, la riconversione di Gioia Tauro, come da anni settori spingono in funzione del complesso militare, industriale, eccetera, pertanto la trasformazione di questo porto in base militare NATO, eccetera. Siamo disponibili a farci carico anche di questo insieme al ponte sullo stretto. E allora, se c'è un problema ponte NATO, se c'è un problema ponte militare, è esattamente la realizzabilità di questo ponte rispetto ai processi di militarizzazione. Spero di non aver esaurito. Sì, hai ragione, perché sono stato forse troppo a slogan. Ero partito, fermo restando che ai cortei continueremo a gridare fuori l'Italia dalla NATO, fuori la NATO dall'Italia, eccetera. Risolveremo ben poco, perché oggi le relazioni tra i gruppi economici e finanziari italiani e per esempio quelli statunitensi non sono di relazione soltanto c'è un dittatore che impone scelte economiche, in questo senso. Leonardo, che è il decimo paese, oggi ha come tra i principali partner economici e finanziari gli Stati Uniti d'America. Leonardo sta vendendo, ha fatto commesse miliardarie negli Stati Uniti d'America rispetto per esempio carri armati, eccetera. Tra l'altro gli ha fatti, questo lo voglio ricordare, perché sono compagni che lavorano sulla campagna di boicottaggio e disinvestimento di Israele, lo sta facendo in congiunzione, in joint venture, con aziende israeliane. Cioè Leonardo e aziende israeliane produce sistemi d'arma per i carri armati statunitensi negli Stati Uniti d'America. C'è tra l'altro un'azienda, DRS Technology, che era al 100% proprietaria di Leonardo, un anno e mezzo fa si è fusa con capitali finanziari israeliani, per cui c'è stata una specie di scambio di capitali. Gli israeliani sono entrati nella DRS Technology, che era soltanto di Leonardo, e Leonardo è entrata con propri capitali in un'azienda in Israele. Questo per capire, ecco, questo per dire che i rapporti tra noi e gli Stati Uniti, tra noi e Israele, non sono soltanto che c'è uno che comanda e gli italiani che siamo l'anello debole per cui ci prendiamo le basi USA e NATO, perché loro hanno vinto la seconda guerra mondiale 80 anni fa e noi siamo condannati a dover dire sempre sì. Una cosa, Fincantieri, uno dei progetti più grossi della marina militare statunitense sono delle fregate. Le fregate si fanno a Mariette, mi pare che sia in Missouri o in Wisconsin, non ricordo in questo momento in che stato, ma nei cantieri di Fincantieri. Scusate il gioco. Cioè, un'azienda italiana che sta producendo la più grossa commessa di fregate delle forze armate statunitensi, ovviamente negli Stati Uniti. Questo per capire, nel bilancio, cioè nelle autorizzazioni all'esportazione di armi del 2022, primo paese ovviamente, il buon Erdogan, che, a cui tra l'altro, lo voglio ricordare, abbiamo fornito le tecnologie di telecomunicazioni per gli elicotteri d'attacco, che sono gli elicotteri che vengono utilizzati quotidianamente per i bombardamenti sul popolo curdo. Questo per dire, per cui anche alle compagne e compagni alziamo anche lo scontro rispetto alla questione, cioè non basta dare la solidarietà ai compagni curdi, cioè quando poi il sangue del popolo curdo passa attraverso il know-how di Leonardo. Secondo paese che ha ricevuto armi italiane sono gli Stati Uniti, poi a seguire Arabia Saudita, Kuwait, Qatar, Emirati Arabi, eccetera. Questo per capire che armiamo il peggio del peggio del peggio. Per cui ecco, le responsabilità italiane in questo senso sono molto più gravi e soprattutto cambiano i rapporti di forza. Del resto, quando, facciamo bene anche a ricordarlo ora, quando Assange, quando furono decriptati i messaggi tra le ambasciate italiane e l'ambasciata statunitense in Italia, gli Stati Uniti, degli anni 2000, 2006, eccetera, moltissimi cable riguardavano lo scambio. Cioè, gli italiani stanno facendo storie per la base a Vicenza. Ma se noi gli garantiamo la commessa Leonardo, gli garantiamo gli F-35 a Cameri, per cui una parte Lockheed Martin gliela fa fare agli italiani l'assemblaggio, eccetera, probabilmente gli italiani, in quel momento c'era un governo di centrosinistra, Prodi, per ricordarlo, eccetera, probabilmente gli italiani creano, erano due gli argomenti che preoccupavano tantissimo gli statunitensi, il muo San Iscemi, la base a Vicenza. Probabilmente, se gli diamo qualcosa in termini di commesse, in termini di F-35, glieli facciamo fare in parte anche in Italia, eccetera, probabilmente è successo esattamente questo. Per capire, non sono arrivati gli americani, hanno imposto che la base si facesse a Vicenza. Il MUOS di Niscemi, lo dico per tutte e per tutti, è l'esempio forse più emblematico del livello criminale delle classi dirigenti politiche, sociali e economiche italiane, ma nel caso specifico del MUOS siciliane. Il MUOS è stato realizzato in violazione delle normative urbanistiche, delle normative ambientali e delle normative antimafia, non perché l'abbiano deciso gli Stati Uniti d'America. Il MUOS è un apparato di telecomunicazioni a uso esclusivo delle forze armate americane. Gli americani non hanno imposto niente a nessuno. L'autorizzazione è stata data dalla regione siciliana, ok? Perché gli americani hanno chiesto, perché interveniva in un parco naturale, in una riserva naturale protetta, hanno chiesto regolari autorizzazioni alla regione siciliana. Pertanto, bypassando anche i rapporti diplomatici, non è che era una questione internazionale, che sapete che per Costituzione non può essere una regione che la discute. Questo per dimostrare, ecco, per rispondere, cioè, gli americani sono imperialisti, il principale assassino e criminale del mondo, eccetera. Questo non comporta che i rapporti di forza non sono quelli di 80 anni fa, sono cambiati gli equilibri, le classi dirigenti, i gruppi economici dirigenti, i manager dei grandi gruppi economici italiani hanno responsabilità fondamentali nei crimini che vengono commessi anche in termini di processi di militarizzazione del territorio italiano. Allora, io ho iniziato a politicizzarmi 20-25 anni. Tutte le battaglie che ho sentito, sono arrivato all'ultimo intervento. Sì, scusate. Io ho iniziato a politicizzarmi nell'ultima 20-25 anni fa, con molte delle battaglie che ho sentito parlare qui. Ponte, NATO, anche gli slogan che ho sentito, che poi ho anche ripetuto, no dal Molin, muos, miscemi, manifestazioni, quant'altro. Ponte è stato proprio il mio battesimo, diciamo, quindi a qualche chilometro da qui, Cannitello. E dopo 20-25 anni chiedo, no, non a te, chiaramente, chiedo a tutti quanti noi, cioè, che possiamo fare? Cosa dobbiamo fare? Qualcosa, cioè, ho sentito questo fatto delle scuole nelle caserme, cioè, è chiaro che se non si inizia da lì, no? A iniziare a vietare questi tipi di... e quindi farsi sentire, cioè, riprendere le pratiche. Ovviamente magari con un po' di innovazione comunicativa, linguaggio, pratiche. Adesso, non, secondo me è una cosa che si deve parlare all'atere, comunque è un butto solo semplicemente il sassolino. Di sicuro quello che ho visto qui dentro, quello che vivo, questa comunità da meno anni, dal mio battesimo, diciamo, politico, io credo che anche questa realtà, questa LAC Meeting, possa dare il proprio contributo, perché vedo tante di quelle connessioni e anche ricchezza, competenze di ognuno, eccetera, eccetera, diversità, visione del mondo, eccetera, ma ci sono delle cose che ci accomunano, ok? Credo che in questi giorni le abbiamo viste, vissute, costruite. Sicuramente ci sono stati anche hack meeting logisticamente fatti meglio, il tempo non c'è, ma cazzate queste cose qua, cioè, perché la cosa importante secondo me è che ci, no? Ci vediamo, ci incrociamo, capiamo cosa vogliamo fare. Anche la discussione di ieri sera, questa è stata la mia panchina, io mi sono addormentato, mi sono svegliato, ho ascoltato, ho metabolizzato, stanotte è uscito, però secondo me qualcosa la dobbiamo fare, se no, cioè, che facciamo? Local language. Però so, e vorrei conferma sicuramente da te, che sarai più informato di noi, che il 10 pomeriggio c'è a Catania, alla palestra occupata a Lupo, un incontro di discussione e sicuramente coordinamento a livello, penso, calabrese-siciliano, poi non so quanto è, però anche appunto da remoto la possibilità di collegarsi e di tutte le realtà che vogliono partecipare per la preparazione di questa manifestazione nazionale del 21 ottobre, che invece parte anche dal grande impulso alla discussione, alla ripresa della discussione su questi temi, che è stata data dai compagni toscani che lavorano sul No Coltano, questa base dei carabinieri, no? Di cui tu parlavi. Quindi in qualche dove so anche che c'è stato un grande incontro, no? Quest'anno, in estate, di coordinamento nazionale, quindi c'è una ripresa di questo lavoro, no? Di analisi, ma anche di pratica. Tu ne sai qualcosa di più? Sì, ti ringrazio su questo, perché anche l'esperienza di Coltano, secondo me, anche rispetto a quello che dicevi te, cosa potete fare, l'area che si incontra. L'esperienza di Coltano, secondo me, è estremamente significativa per diversi aspetti. Primo aspetto, perché a Coltano, Pisa, cioè l'area di Pisani, eccetera, è stata brava, secondo me, su due aspetti. Quello intergenerazionale, che è uno dei problemi grossi all'interno dei movimenti antagonisti del nostro paese. Cioè, c'è un problema di relazione, di comunicazione, di linguaggi e di pratiche, eccetera, tra le generazioni. A me sembra che a Coltano sia un laboratorio sperimentale straordinario da questo punto di vista, perché culture diverse, linguaggi diversi, eccetera. Tra l'altro a Coltano c'è stata una produzione di documentazione, soprattutto di tipo informatico, di lettura del territorio, che secondo me è stato straordinario. Cioè, noi non siamo stati, ne parlavo anche ieri con i compagni in Oponta, Messina, eccetera, siamo veramente indietro, nonostante abbiamo, per rendere visibile le problematiche di un'opera. Ecco, Coltano ha questa capacità, per cui secondo me è un laboratorio sperimentale dove dobbiamo starci tutti, perché secondo me possiamo apprendere, e voi avete anche la capacità di fornire strumenti ai movimenti. Per cui, dato, rispondo anche a quello che dicevi te, secondo me voi avete in mano una serie di conoscenze, linguaggi e di modalità, oltre una questione generazionale, che secondo me è fondamentale in questo momento per rompere alcuni impasse che ci sono nei movimenti di lotta a livello territoriale rispetto al consenso, rispetto, per cui secondo me dovreste porvi voi intanto come potete diventare, mettervi a disposizione in questo senso delle reti, dei movimenti, eccetera, e il bagaglio di formazione di conoscenza. Questa cosa del 21 ottobre, è fatto bene a ricordarlo, questa straordinaria assemblea che si è tenuta a giugno a Coltano, è stata decisa questa data simbolica del 21 ottobre con due eventi nazionali, probabilmente diventeranno tre: Gedi, dove ci sono le armi nucleari, a Brescia, per il nord, centrale Coltano, e in Sicilia domani verrà decisa, non nascondo, ci sono difficoltà logistiche, cioè c'è la difficoltà di immaginarsi un luogo, ci penalizza paradossalmente, che può essere un aspetto positivo o negativo, anche questo fatto della riuscita straordinaria delle due manifestazioni a Messina rispetto al No Ponte, capisci che comporta la guerra, il dire il no alla guerra, no alle militarizzazioni, in questa fase di difficoltà enorme che ci abbiamo soprattutto nel sud Italia, c'è il rischio di lanciare una grande corsa e trovarsi poi spiazzato e dire ma come eravate, manco ad agosto eravate 5.000, 4.000 eccetera e ora vi ritrovate, per cui c'è anche questa difficoltà. Però al di là di questo, mantenere il 21 secondo me è importante. Anche le cose che ho cercato di dire nell'introduzione sono il frutto, cioè non è, io vabbè, ci ho messo di mio nel senso dal punto di vista della ricerca eccetera, però quello che è estremamente importante è che anche la lettura che abbiamo dato degli effetti della guerra in Ucraina sui territori, sulle grandi opere, sull'estrattivismo fossile, cioè sul rilancio di progetti energetici devastanti, sono l'effetto di quella guerra. Quello che mi sembra positivo, girando anche tutti i campeggi che sono stati fatti in quest'estate, anche di aree diverse di movimento, di aree diverse di settori, di centri sociali, eccetera, però penso che dal punto di vista delle analisi sulla guerra, sullo stato di guerra, sul fatto che c'è una guerra economica, un processo di militarizzazione della cultura, della storia, questo è fondamentale. L'ultima cosa, c'è già una risposta. Ecco, per esempio, sul processo di penetrazione, lo scorso anno, anche grazie al CESP, che è un centro di formazione che ha fatto formazione con migliaia di insegnanti, settori del sindacalismo di base della scuola, pezzi del mondo cattolico che da anni si pongono il problema della militarizzazione dell'educazione, è stato costituito un osservatorio sulla militarizzazione della scuola, che è stato esteso alla militarizzazione dell'università. Io non ho parlato dell'università perché davo per scontato che chi è studente universitario sa che la battaglia università da questo punto di vista è persa, nel senso che le università si sono completamente vendute alla ricerca militare, non soltanto le università dediche alla tecnologia, ai nuovi sistemi di comunicazione, telecomunicazione, le facoltà storiche e umanistiche forniscono la lettura dei conflitti sociali, economici, eccetera, vendendoli alle forze armate. Scienze politiche a Bologna è l'esempio più emblematico, ha avuto contratti con la NATO per leggere fenomeni come le migrazioni, cioè quelli che poi diventano, che vengono adottati dalla NATO per poter giustificare politiche di intervento militare. Questo lo dico, per cui si è fatto questo, quest'anno l'osservatorio lo si sta lanciando, secondo me, lo dico con tutta sincerità, è fondamentale. Se c'è un gap, se voglio essere autocritico sull'osservatorio, c'è il problema generazionale. Cioè, nella scuola italiana, paradossalmente, quelli che si sono messi in moto, che hanno fatto un'analisi autocritica, quelli che hanno percepito quello che sta passando nella scuola italiana funzionale al modello di guerra, che poi è un modello autoritario, tra l'altro, attenzione, c'ha degli effetti, io non l'ho detto. Guardate che la militarizzazione dell'istruzione sta consentendo lo sdoganamento di valori che erano tipici e fondanti della cultura del fascismo. Per cui, e io lo dico sempre ai compagni dell'AMPI, vabbè, benissimo, cioè fate bene a portare alla memoria della storia delle lotte antifascismo, ci mancherebbe, però attenzione, perché oggi è in atto uno sdoganamento di modelli, di narrazioni, eccetera. Una cosa banale, nuovi modelli di comunicazione. L'anno scorso è stato distribuito un fumetto agli studenti italiani dall'esercito in occasione della giornata del Milite Ignoto. Da 2 anni si rifesteggia il Milite Ignoto nelle scuole. Questa cosa del Milite Ignoto è da 2 anni che si festeggia con gli studenti ricordando questa ignobile. Nel fumetto distribuito, per fortuna un fumetto brutto dal punto di vista grafico, per cui non so che effetto abbia avuto sulle nuove generazioni, venivano sdoganate 2 figure ignobili della storia d'Italia che dovrebbero essere processate in un tribunale per i diritti umani. Uno è il generale De Wet, che è generale aeronautica militare, che è il primo teorico al mondo dei bombardamenti sulle popolazioni civili. Prima che scoppiasse la prima guerra mondiale, diceva: le guerre saranno guerre di usura, saranno guerre di trincee, morranno. Esattamente, prefigurava quello che sarebbe avvenuto nella prima guerra mondiale. Per risolvere questo, bisogna andare su Vienna, bombardare la città, uccidere i civili, così in questo modo i governi sono costretti a chiudere, ridurre i tempi delle guerre, esattamente legittimando quello che poi gli americani hanno narrato con la fine della seconda guerra mondiale, con lo sgancio, col massacro a Hiroshima e Nagasaki. Questo è il generale De Wet, che viene esaltato nel fumetto distribuito. La seconda figura che viene distribuita è Cesare Maria De Vecchi. Cesare De Maria De Vecchi, parlamentare torinese, quadrumviro della marcia su Roma, poi ministro dell'istruzione durante il periodo fascismo, quello che negli ultimi anni portò la cultura libro e moschetto fascista perfetto, pertanto cioè della militarizzazione dell'istruzione, e che, pensato un po', fu il primo governatore italiano in Somalia, che fu immediatamente trasferito da Mussolini e da Ciano per i crimini commessi sulla popolazione somala. Per cui diede fastidio anche al fascismo, che fu costretto a richiamarlo a Roma, proprio per non inimicarsi ulteriormente le popolazioni e le classi dirigenti somale. Queste 2 figure, siccome uno è stato quello che propose il Milite Ignoto 100 anni fa, l'altro fu il primo parlamentare che presentò la legge in Parlamento italiano nel 19 per finanziare la realizzazione del monumento al Milite Ignoto, l'altare della patria a Roma, questi hanno il fumetto e decine di migliaia di studenti italiani, se hanno letto quel brutto fumetto, hanno imparato che sono 2 figure a cui l'Italia deve essere riconoscente, perché abbiamo, grazie a loro, istituito il Milite Ignoto. Pertanto la militarizzazione della cultura, dell'istruzione, sta favorendo enormemente un processo di revisionismo storico e di valori, utilizzo per dire altro, infami, su cui il fascismo ha costruito un modello culturale e ha costruito giovani, infarcendo di valori, di disvalori, giovani che sono stati mandati al massacro, prima in Africa orientale e poi nelle campagne di Russia, con cui sappiamo una generazione intera è stata massacrata. Ti ringrazio per questo, perché anche su questo la dobbiamo smettere di dire che c'era un paradiso terrestre sino allo scorso anno, poi è arrivata una fascista con quel gruppo di delinquenti e il paese è diventato il lager che conosciamo. Le leggi sui migranti risalgono alla Turco, non mi ricordo, alla Turco Napolitano, che certamente Minniti, che tra l'altro anche su questo, questa criminalizzazione di Crosetto, Crosetto c'ha i conflitti di interesse, eccetera. Crosetto è organico al complesso militare industriale, come lo è organico Minniti, che ha la presidenza Leonardo Medor, che è la fondazione di Leonardo, per penetrare nel mondo universitario accademico, favorendo i processi che dicevo poco fa. Il primo accordo istituzionale formale tra il Ministero dell'Istruzione e il Ministero della Difesa, che ha aperto la diga per questa militarizzazione de facto dell'istruzione italiana, risale al 2014. Il ministro della difesa era la cattolica, la cattocomunista, la ministra della difesa di quel periodo era la Pinotti, grazie, era la Pinotti, per cui era un governo di centro-sinistra, è stato il primo accordo. Il primo accordo istituzionale per l'alternanza scuola-caserma, cioè l'alternanza scuola-lavoro, non nelle fabbriche, l'alternanza scuola all'interno delle fabbriche militari, a smontare carri armati e cacciabombardieri, o a fare i servi nelle caserme, nei porti militari, risale nel 2017, governo Renzi. Questo per dire che ovviamente oggi questo governo si trova i numeri in mano per istituzionalizzare il 4 novembre e mettere che sono le scuole l'obiettivo fondamentale di questa festa nazionale. Qui sarà nelle scuole che si costruisce l'identità nazionale, si costruisce il rispetto al tricolore, ai valori fondanti della patria, eccetera. Ma istituzionalizza soltanto un processo culturale che perlomeno è da una decade e che ha visto qualsiasi governo. Anche l'emergenza Covid, che sappiamo quanto è stata fondamentale ad accelerare la militarizzazione delle relazioni, la militarizzazione della sanità, la delega in bianco a quello che oggi comanda le operazioni militari italiane in tutti gli scacchieri internazionali, il generale degli Alpini, la delega in bianco di operazioni che uno Stato, una potenza... pure la distribuzione dei tamponi delegata alle forze armate italiane. Questo processo è stato fondamentale perché anche quel modello culturale, i linguaggi che si sono utilizzati durante il Covid, da quel governo, la guerra al virus, siamo in guerra, è uno stato di guerra, è uno stato di guerra, pertanto la limitazione delle libertà, eccetera. Questa cosa è stata fondamentale in questo processo che ha accelerato un modello culturale in cui ha rotto ulteriormente, per cui poi alla fine abbiamo litigato tra noi su quelle misure, un mondo intero dell'antagonismo che si è scontrato a distanza sulla legittimità di quelle misure, invece non rendendosi conto che intanto facevamo il gioco di chi accelerava un ulteriore processo alla militarizzazione del paese, alla militarizzazione e soprattutto alla legittimazione delle forze armate come un'entità che oggi può fare tutto in Italia, può fare l'istruzione, può fare la salute, può fare i servizi sociali, eccetera. Per cui benvengano le forze armate, visto che l'inefficienza è totale, allora deleghiamo alle forze armate. Una nota tecnica, mi hanno chiesto dall'InfoPoint di dire al termine del talk passate a prendere i bigliettini per chi rimane a mangiare. Invece, adesso Rosalba è andata via e mi ha dato il là. Non voglio monopolizzare il microfono o la discussione, ma io ho un problema e ve lo sottopongo. Il 21 ottobre abbiamo la manifestazione, c'è la manifestazione No Guerra, no? In sintesi. Io il 21 ottobre mi hanno chiamato per andare a Palermo, che c'è una manifestazione nazionale del Disability Pride. Ok? Cioè, gli stessi giorni. Okay. Quindi voglio dire, ma almeno, almeno gli eventi, le manifestazioni, le cose, cioè, le vogliamo, come dire, non atomizzare, almeno quelle nazionali, dico, non dico le locali perché sennò, cioè, davvero sarebbe il morire, però almeno le nazionali. Si può avere un coordinamento di tutte le istanze che possano, cioè, io sono davvero combattuto dove andare, perché vi pongo, non voglio, ripeto, non voglio monopolizzare, però a me hanno chiamato da Palermo i disabili pirata. Se posso venire con una persona di Cosenza, quindi della mia stessa città, che si occupa di disabilità, anche lei disabile. Ok, sono stati presenti alla manifestazione No Ponte, infatti, anzi, per me altro pilone, diciamo, di questa cosa, perché mi hanno messo davvero... Mi hanno dato forza anche per aprirmi ad altre situazioni. Quindi mi ha chiesto, dice, guarda, so che da Cosenza c'è questa persona, se non hai come venire, vieni con lei che c'è sul treno, traghetto, nave, quel cazzo, c'è l'accompagnatore, non paga. Va bene, vabbè, io poi faccio cose visual, eccetera, eccetera, per cercare di amplificare quel messaggio là, quindi darò il mio piccolo contributo. Però già lo sapevo che c'è la manifestazione contro la guerra. Ma io sono, cioè, che devo fare? Dove devo andare? Cioè, sono combattuto. Cioè, quindi almeno le cose nazionali abbiamo, e qui torno, diciamo, il refrain si ripete, abbiamo anche messo sugli strumenti, no? Di coordinamento, vabbè, per un'agenda, un accrocco informatico per avere come dire, un'agenda collettiva. Però è solo la parte informatica, tecnica. Se non viene coordinata, riempita, al momento non è completamente finito questo percorso. Anzi, diciamo che siamo anche a metà, ma nemmeno a metà. Però io sono combattuto, cioè io in questo momento andrò a Palermo. Però tutta una serie di altre situazioni che sono state dette anche dopo, cioè, mi appartengono, assolutamente mi appartengono, anche perché, non so, denunce, cazzi, mancare nella, cioè, di tutto di più. Io, almeno questo è il mio vissuto, non so il vostro, se no perché l'ho fatto? Perché lo sto facendo? Allora lo faccio giusto per? Anche no. Anche questa è una domanda veramente importante. Ovviamente, cioè, io non ho parlato delle guerre ai migranti e alle migrazioni, perché, però anche questa è una conseguenza, è l'accelerazione e il rafforzamento della militarizzazione delle frontiere, sia quelle esterne, sia dell'ulteriore trasferimento delle frontiere, per esempio sul continente africano, per cui sposti sempre più inoltre, eccetera. Il rafforzamento delle forze armate europee, Italia in testa, nel Golfo di Guinea in particolare, che è legato sia all'estrattivismo e al rafforzamento degli accordi con EI, ma è legato anche sui progetti di cooperazione con le forze armate di quei paesi a cui dai armi e a cui deleghi il gioco sporco di fare la guerra ai migranti e il più possibile di non fare neanche più attraversare il Sahara, così risolvi alla radice. Allora, questo è un aspetto fondamentale. Sulle fonti, innanzitutto io consiglio sempre di guardarsi il sito di Frontex, Frontex. Il sito di Frontex e soprattutto i bandi che Frontex fa o le fiere che Frontex promuove a livello internazionale proprio per la sperimentazione o l'acquisizione di nuovi sistemi bellici. Tra l'altro anche lì siamo sul dual, cioè spesso sono sistemi che vengono utilizzati per funzioni di ordine pubblico, di controllo, di vigilanza sui territori, che poi vengono utilizzate per le frontiere esterne. Fermo restando che lì siamo anche andati molto oltre, perché i droni che vengono utilizzati sono i droni che poi vengono utilizzati in guerra, cioè non sono il dronetto che viene utilizzato per il controllo. Allora, questa cosa è una cosa di Frontex, eccetera. Purtroppo, allora, sicuramente esiste il canale, quello dell'Unione Europea, c'è proprio nell'Unione Europea, da questo punto di vista, trasparenza a tutte le gare che mette, anche le gare per 10.000 euro, c'è il database, per cui utilizzando le parole che ti possono servire, vigilanza, frontiera, eccetera, tu riesci a sapere esattamente chi ha fatto il bando, la società che ha ottenuto il bando, e spesso già nel bando ci sono delle conformazioni tecnologiche che tu riesci a comprendere il tipo di sistema d'arma. L'altro aspetto, quello che dicevo io, l'Italia da questo punto di vista, proprio per parlare di italiani cattiva gente, negli ultimi 2-3 anni ha firmato un mare di accordi con paesi dell'Africa occidentale, ma vale anche per il Mozambico, in cui metti nello stesso cappello cooperazione militare, cooperazione sul controllo delle frontiere, eccetera, e lì la linea di demarcazione, quando tu ci mandi le forze di polizia o le forze armate o il Tuscania a fare l'addestramento, lì non capisci più qual è la linea di demarcazione tra l'addestramento antiterroristico, come viene giustificato buona parte di queste missioni, all'addestramento per intervento in funzione di ordine pubblico e dunque in funzione di guerra alle migrazioni. Su questo ti dico anche un'altra cosa. Andate a vedere nel sito del Ministero della Difesa, c'è una sottoparte, c'è missione per missione, c'è la carta geografica, tu entri. Io vi consiglio di guardare soltanto Libano e Kosovo, tra l'altro le due missioni internazionali che sono le più neutre, cioè le meno aggressive, tra virgolette, le meno imperialiste di quelle. Cioè, ti posso garantire che resti inorridita dalle fotografie, perché nel 95% le esercitazioni che vengono fatte sono simulazioni di praticamente antifolla, antisommossa. Cioè esattamente l'addestramento a reprimere qualsiasi tipo di manifestazione di opposizione, cariche, esattamente come rispondi alle cariche, e sono soprattutto in questi paesi, Libano e Kosovo, non puoi non avere una funzione antimigranti, perché sono esattamente in due delle aree maggiormente interessate, il Kosovo, ma dico quella dei Balcani in genere, il Libano, che sappiamo quanto poi comporti rispetto alle popolazioni palestinesi o rifugiate anche siriani che sono arrivati in Libano e che hanno reso ancora più esplosiva la situazione in Libano. A mio modesto parere, già il fatto che siamo lì ad addestrare, a reprimere, già è una cosa ignobile che dovrebbe essere denunciata pubblicamente per quello. Anche perché, attenzione, c'è una ricaduta anche sul fronte interno. Quando le nostre forze armate, l'arma dei carabinieri, si addestra, hai acquisito un livello di... che poi non lo puoi non utilizzare qui, sui NOTAV, sui NOPONTE, sui NOVALMOLIN e sui NOBAS. Non puoi non addestrarlo, utilizzarlo contro gli studenti che lottano contro l'alternanza scuola-lavoro, eccetera. Per cui c'è un effetto anche, come posso dire, devastante dal punto di vista della repressione sul fronte interno. Del resto lo diceva Sayyad, cioè quello che oggi facciamo ai migranti, in termini di repressione, in termini di riduzione di agibilità, di criminalizzazione, poi non può non avere ricadute sull'agibilità politica dei cosiddetti cittadini che vivono sul territorio. E questo lo scriveva negli anni 90, cioè, per cui le politiche di repressione sui lager, cioè quello che dovremmo avere la capacità di spiegare alle compagne e ai compagni, non riguardano soltanto che si stanno sperimentando le vecchie politiche naziste sulle sorelle e i fratelli che scappano dalle guerre o dai crimini, ma esattamente quel modello di controllo sociale, quel modello di limitazione della libertà, quel modello di renderti uno luogo, di toglierti la speranza, di educarti ad abbandonarti a te stesso, a cancellare i sogni, speranze, eccetera, è quello che poi viene istituzionalizzato negli ospedali, che si stanno istituzionalizzando nelle scuole, che si sono già istituzionalizzate le università, cioè la decerebrazione e lo spogliazione di qualsiasi tensione etica e morale. Questo è il laboratorio sperimentale dei lager per i migranti del nostro paese. E questo è un apprendimento, tra virgolette, culturale, perché poi lo sperimenti in tutte le strutture. Scusatemi, la legge di punibilità dei minori che è il frutto... Allora anche noi dovremmo avere anche la capacità di sfuggire. Io ho letto nei social, anche compagni e compagni, l'attacco al branco. Cioè dobbiamo essere i primi noi, cioè a cercare di rendere, come non dobbiamo accettare le logiche binarie della guerra aggressore-aggredito. È chiaro, il 24 febbraio è inequivocabile che sono stati carri armati russi a entrare in Ucraina. Ma la logica non può essere la logica binaria. Le guerre non scoppiano perché viene ammazzata a Sarajevo l'arciduca d'Austria e scoppia un crimine dove vengono ammazzate centinaia di migliaia di persone nei fronti per 5 anni. Le guerre scoppiano perché ci sono contraddizioni sociali, economiche, che si procrastinano per decine di anni e che poi c'è un evento che le favorisce. Stesso discorso, non possiamo consentire che di fronte a fatti ignobili, l'assassinio, lo stupro, eccetera, ci sia la caccia al singolo, come è stato durante il Covid. Il problema del Covid non era qual è il meccanismo sociale, economico, sanitario che produce le pandemie e che impedisce che stati sviluppati economicamente non siano in grado di ridurre il danno in caso di una pandemia. No, il problema è la ricerca dell'untore che scende in piazza violando la legge e che trasmette il Covid, che poi oggi, se pensiamo a quello che abbiamo vissuto 3 anni fa, ci viene anche da ridere di come siamo andati fuori anche noi stessi, perché ovviamente anche noi stessi siamo stati condizionati profondamente. Però come movimento, e allora anche il lavoro che fate, secondo me, deve essere funzionale per impedire che ci sia l'attacco al singolo e che la violenza e lo stupro non può non essere il frutto di un modello macista, di un modello di relazione tra i generi, che è strutturato dalla violenza, di cui non puoi ovviamente criminalizzare il singolo, perché è troppo comodo. Infatti non è stato troppo comodo perché una società ha criminalizzato il branco a Palermo, così tutta la società si è, perché sono quelli i criminali, noi siamo la società dei sani, noi siamo quelli che siamo fuori, e peggio utilizzi questa cosa per un ulteriore giro di vite, per criminalizzare, per leggi liberticide, che ripeto, 50 anni fa sarebbe stato impensabile che tu potevi il problema della punibilità a 14 anni, del carcere a 14 anni, a dimettere anche il dibattito che puoi mettere in carcere anche a 12. Le famiglie che vanno in galera perché la gente, cioè l'evasione scolastica, ma chi cazzo lavora nei quartieri delle scuole a rischio, sa che l'evasione scolastica non è che il genitore che non manda i figli perché è un criminale, per cui lo devi mettere in carcere se non ti manda il figlio. Perché la complessità? Perché a scuola ormai mandare un ragazzino alla scuola dell'obbligo costa 700-800 euro, per cui c'è 2 redditi di cittadinanza che gli avete tolto, 2 mesi di reddito di cittadinanza per mandare un figlio, e chi ha 3 figli nella scuola dell'obbligo significa moltiplicare per 3, questo significa. Senza tra l'altro prospettiva, perché questa società di merda impedisce anche quella mobilità sociale per cui 60 anni fa il sottoproletariato faceva sacrifici per mandare i propri figli, emigrava nelle fabbriche del nord e si portava i figli perché sapeva che era un periodo di mobilità sociale per cui facendo sacrifici tuo figlio sarebbe diventato medico, cosa che è stata, perché l'Italia degli anni 50 e 60 consentito la mobilità sociale, per cui chi è andato analfabeta dal sud Italia a lavorare a Milano e a Torino ha laureato i propri figli. Oggi neanche chi è laureato può laureare i propri figli, sa che se ne viene sino a 40 anni a casa perché la precarietà è diventata strutturale ed è l'elemento con cui costruisci in questo modello. Allora queste cose, criminalizziamo i genitori che non mandano i figli alla scuola dell'obbligo e li mettiamo in galera. Però questi processi di militarizzazione, ritenere che la guerra, ritenere che la violenza sia strutturale, che risolvi tutto nei rapporti di forza tra il potere e chi non lo esercita, ti consentirà oggi il carcere a 12 anni, domani il carcere a tutti i disobbedienti, il carcere a chi si mette a giocare, a fare l'hacker, a rimettere in discussione il controllo delle transnazionali, dei modelli delle comunicazioni e dell'informatizzazione. Cioè, diventano processi, secondo me, fisiologici a questo tipo di sistema. Allora, da una parte difendersi, costruire modelli, una cosa che dico sempre ai compagni, paradossalmente negli anni 70, quando c'era il terrorismo rosso, c'era i movimenti, c'era l'autonomia che veniva criminalizzata, massacrata, eccetera, paradossalmente in quella fase storica, in una violenza istituzionale enorme da parte dell'apparato dello Stato, probabilmente i sistemi di difesa dei movimenti sociali erano più forti di quelli che oggi i movimenti sociali e collettivi hanno, perché sono saltati tutti i soggetti intermedi, partiti, sindacati, eccetera, che facevano da cuscinetto tra la repressione dello Stato e i movimenti sociali, perché c'era la generosità dei movimenti che non criminalizzava anche aree con cui non riteneva di condividere le pratiche, le azioni di lotta, eravamo tutti sulla stessa barca. Poi lo scontro politico tra noi era enorme, tra chi riteneva legittimo un tipo di azione, no, ma nessuno veniva delegittimato nel momento in cui finiva in galera. Ok? Era un compagno, aveva sbagliato, ma andava protetto e difeso, non poteva restare in galera nel massacro dello Stato. E poi esisteva un'area di giuristi, magistrati, avvocati, eccetera, che facevano le battaglie giuridiche sia dal punto di vista nelle sedi intellettuali, nella stampa, eccetera, ma si mettevano gratuitamente a disposizione dei movimenti sociali. Oggi io vedo migliaia di compagni e di compagne che si trovano soli quando c'è la repressione, a dover avere la relazione tra singolo e l'apparato repressivo da parte dello Stato, in cui gli devi pagare gli avvocati, in cui sei costretto, non c'erano i decreti penali di condanna, a pagarti 2.000-3.000 euro di decreto penale di condanna per toglierti di sopra, perché ti manca, anche simbolo dell'isolamento, la vittoria dei decreti penali di condanna. Io ho tantissimi compagni che poi preferiscono questa scorciatoia, accettare il sacrificio di pagare per togliersi, però anche questo lo vedo come una fragilità dei movimenti. Consentimi, ho esemplificato, lo dico, però quello che voglio dire, quello che mi preoccupa è che vedo una fragilità e una mancanza di difese che paradossalmente in momenti molto più duri di violenza proprio istituzionale da parte dello Stato, di repressione, cioè di carceri speciali, cioè, paradossalmente vedevo la tortura istituzionalizzata, cioè, paradossalmente se devo fare un paragone, vedo una maggiore fragilità, una maggiore sovraesposizione, soprattutto per le nuove generazioni, perché ti mancano, tanto ti mancano generazionalmente i compagni che magari hanno 5 anni, 6 anni, 10 anni più di te. Pertanto anche nelle pratiche di lotta si rompe una relazione di comunicazione. Diventa molto più complicato per noi vecchi comprendere le dinamiche, le azioni e le metodologie dei giovani. E questo crea difficoltà di relazione. E seconda cosa, ti manca anche la possibilità di condividere questa cosa di esperienza. Più ti mancano i soggetti politici, interlocutori che comunque si assumano nelle loro sedi istituzionali, perché comunque anche all'interno del PC, il PC c'aveva i magistrati che che facevano razzie dei compagni e te ne mettevano 1000 in carcere, di Calogero a Padova. Però il PC anche in quegli anni c'aveva fior di magistrati che facevano battaglie per per denunciare la totale insostenibilità. Un pezzo di magistratura democratica, cosa non per ritenere assolutamente il PC. Il PSI, che era nostra avversaria di classe, ma il PSI teneva aperto il dialogo con le aree. Oggi è scomparso qualsiasi soggetto entro pezzi del sindacato. Il sindacato andava a fischiare in piazza a Bologna, ma pezzi del sindacato mantenevano relazioni con i movimenti sociali, rendendosi conto che comunque il mondo era molto più complesso di quello che volevo leggere, che non esistevano soltanto i partiti e i sindacati, ma c'erano anche i movimenti antagonisti in piazza. Ecco, a me quello che preoccupa oggi è che la mancanza di interlocutori, la mancanza di intellettuali, cioè oggi gli intellettuali sono tutti di regime, sono quelli che vanno in televisione a fare logiche binarie, io sono per la guerra, sono contro la guerra, ma ti mancano figure di intellettuali, eccetera, che si assumono, che mettono la faccia. I giornalisti sono i primi a non mettere la faccia nel nostro paese e a piegarsi a tutte le logiche, accettando il mainstream, perché non devono assolutamente mettersi contro, perché questo li esclude. I docenti universitari. È un caso, compagni e compagni, che mentre l'osservatorio c'ha centinaia di insegnanti delle scuole medie, insegnanti delle scuole elementari, che ci mettono la faccia nelle scuole e che invece hanno difficoltà a parlare con gli studenti dei superiori, che, ecco, io dicevo poco fa, se c'è un gap nell'osservatorio è che mancano gli studenti, e secondo me non può camminare un osservatorio sulla militarizzazione, anche perché poi le azioni di contrasto nelle scuole, la disobbedienza civile all'alternanza scuola-lavoro, devono fare gli studenti, devono essere gli studenti a dire io obietto, io l'alternanza in fabbrica, l'alternanza non ce la vado a fare, non accetto questo modello di lavoro schiavo e non accetto che questo modello di lavoro schiavo lo si faccia in caserma o lo si faccia, come si chiama, nella fabbrica da Leonardo o alla Beretta. Cosa devono fare gli studenti? Ecco, questo è un caso dei docenti universitari. Sono 4-5 quelli che ci mettono la faccia e che hanno il coraggio a fare seminari all'università sul ruolo del complesso militare industriale accademico nel nostro paese. Questi sono problemi che dobbiamo porci. Non era così negli anni 70. Negli anni 70 c'erano pezzi di università, nelle differenze, nelle letture, io ti dico la verità, su questo io non ho una risposta, per me ancora è una domanda. Io quello che ti posso dire è che non è vero che anche nell'establishment politico-militare la guerra sia avvertita e sia sentita come l'unico mezzo di risoluzione. Paradossalmente, nei settori militari, anche in ambito NATO, sia italiano che straniero, i geostrateghi, quelli che le principali riviste militari italiane, Analisi Difesa, Difesa Online, Ares, eccetera, guarda che il dibattito su questa guerra è molto paradossalmente, cioè non rispecchia quello che vediamo in televisione. Ci sono quelli che ritengono che sia necessario sostenere l'Ucraina fino alla fine, inventandosi tutti i motivi che conosciamo, che ci dicono in televisione, eccetera, ma ci sono ampi settori, anche le stesse delle forze armate, che ritengono che è stato un errore dall'inizio a oggi tutta questa escalation, e che continua a lanciare allarmi, che a forza di accettare questi passaggi di escalation rischiamo realmente, cioè gli allarmi sul rischio di guerra nucleare totale vengono più da questi settori, cioè paradossalmente in questo momento il mondo militare è molto più attento e molto più preoccupato degli effetti e delle conseguenze di questo conflitto di quanto lo sia, tra virgolette, il mondo politico europeo. Già negli Stati Uniti ti dico che la situazione è diversa. In questo momento, per vari motivi, non per motivi nobili, il Partito Repubblicano in questo momento stava per scegliere il candidato che andrà nel 2024 a scontrarsi con Trump per le presidenziali, per cui ci sono le primarie. Nelle primarie del Partito Repubblicano c'è uno scontro enorme in questo momento tra le varie posizioni rispetto all'Ucraina, proprio rispetto all'Ucraina. ci sono già stati senatori che hanno votato contro l'invio di nuovi pacchetti militari all'Ucraina. Poi per vari motivi, dico anche meno nobili, alcuni ritengono che questi soldi bisogna risparmiarli col vero scontro epocale che è quello con la Cina. Meglio andare a Taiwan ad armare che armare l'Ucraina contro la Russia. Cioè, ok? Ci sono, questo per rispondere anche alla compagna, ci sono senatori che ritengono che quelle risorse finanziarie è meglio spendere per rafforzare il dispositivo militare col Messico, per fare la guerra ai migranti latinoamericani per non farli arrivare in Texas. Ok? Sono tante le posizioni. Però ci sono anche posizioni più intelligenti, meno reazionarie, meno, che ti dicono esattamente le cose, che questa guerra è molto più complessa, che non ci sono buoni e cattivi. Stanno uscendo documenti che dimostrano che le cose, che dal 2014 ci sono stati settori che hanno spinto e fomentato la guerra, proprio volutamente sabotando gli accordi di Minsk, i famosi accordi che dovevano portare a una riduzione della presenza militare in Donbass, che dovevano portare di fatto a una rispetto delle minoranze, eccetera, cosa che poi non è stato fatto. E allora, perché lo facciano gli italiani? Ripeto, non gli italiani, non, perché gli dico, paradossalmente ci sono settori che uno non immagina, cioè io preferisco leggere, lo dico con tutta sincerità, leggermi queste riviste, perché sto imparando di più dagli analisti, da questi analisti che ti leggono la guerra. Anche, per esempio, prendi, ti faccio un esempio, quello che sta succedendo con la controffensiva ucraina. Da 2 mesi è stata lanciata questa controffensiva. Se tu leggi tutti i quotidiani italiani, pare che gli ucraini stiano vincendo in tutti i fronti, ok? Che stiano massacrando i russi, che li stiano cacciando, eccetera, per cui, a maggior ragione, avete visto, bisognava inviare le armi, anzi, dobbiamo inviarne di più, dobbiamo sostenerle di più perché stanno vincendo, ok? Poi guardi, la stampa statunitense, e non la stampa, cioè sto parlando di Washington Post, New York Times, altri giornali che sono giornali del capitalismo, non sono le reti antagoniste dei centri sociali, ok? Che ti dico che non è assolutamente vero. Hanno fatto il calcolo che in 3 mesi, nonostante siano morti probabilmente 60.000-70.000 morti, è stata liberata, tra virgolette, un'area che è più piccola della provincia di Ferrara. Ok? Cioè, stiamo parlando di una cosa ridicola, stiamo parlando delle campagne, cioè stiamo parlando dell'Ucraina, cioè lo stato più grande che c'è da est a ovest, cioè un'area che è una delle più piccole province che abbiamo in Italia. E tu stai massacrando, fai una guerra per 3 mesi e hai mandato in questi 3 mesi, se hai possibilità di leggere, io ho ricostruito le armi, cioè una cosa allucinante. Tra l'altro i miei dati sono quelli pubblici che ho trovato praticamente su fonti pubbliche, per cui prendile come il minimo, chissà quante cose sono, iniziare le armi italiane che sono secretate, l'ho detto, non c'è nell'inventario che riesco a prendere io. No, se di fronte a questo vuol dire, perché lo stanno facendo gli italiani? Cioè, allora, anche questi settori geopolitici contestano all'Italia questa sulla questione del gas. Sono loro a dire, ma porca miseria, avevamo fatto accordi con la Russia e l'ENI si avvantaggiava dal punto di vista dei costi, per tanto effetti anche sull'economia di lancio, di traino, eccetera. Sto facendo discorsi da liberalisti, cioè non è i discorsi dei compagni, discorsi di pezzi di capitalismo che non aveva nessun problema a liquidare i diritti umani e tutto il resto. Pagavamo il... E ora ci inventiamo che quelli sono dittatori, per cui lo andiamo a comprare ad Al-Sisi in Egitto, lo andiamo a comprare al regime al Qatar, o peggio ancora, accettiamo che i costi diventino 10 volte perché ce lo facciamo portare dagli Stati Uniti d'America con le navi al gas, dovremmo costruire rigassificatori, pertanto impatto ambientale. Loro stessi dicono, fomentando i conflitti sociali, perché comunque cioè, non puoi costringere i territori ad accettare vere e proprie bombe al gas che ti possono esplodere a Livorno, a Piombino, in Puglia, in Emilia Romagna, a Porto Empedocle, eccetera. Cioè, per cui, che senso ha questo? Chi ci guadagna di questo? Cioè, sono loro stessi che dicono alla controparte politica italiana, che invece non ha nessun dubbio da destra a sinistra su questa guerra, sulla legittimità di questa guerra, eccetera, dicono: ma cioè, perché cosa la stiamo combattendo? Anche, allora, anche questa cosa del complesso militare industriale, eccetera, è verissimo. I fatturati, l'unico soggetto che può rivendicare, che non è l'Italia, sono il complesso militare industriale transnazionale, che ha visto decuplicare fatturati e dividendi nell'arco di un anno e mezzo. Cioè sono aumentati anche e tra l'altro questo ha riguardato non soltanto i grossi gruppi transnazionali. L'Ucraina stessa, in questo momento, ha rilanciato, c'erano industrie ex sovietiche, che erano industrie che attraverso, in questo anno e mezzo, sono diventate grandi produttrici e si lanciano, si promuovono, stanno firmando joint venture con le grandi imprese europee, perché già si promuovono come interlocutore quando la guerra finirà per fare loro gli esportatori di armi. Del resto l'Ucraina era già un grande, quando c'è l'Unione Sovietica, una delle principali produzioni industriali e militari dell'Unione Sovietica proprio in territorio ucraino, per cui hanno già un know-how enormemente sviluppato. Allora, la domanda è da farsi, e probabilmente dobbiamo essere noi come movimenti sociali a imporre nel dibattito pubblico la domanda che facevi te: ma perché cosa stiamo facendo questa guerra? Cioè, chi ci guadagna? Perché qui non ci guadagna nessuno. In prospettiva ci potrebbero guadagnare le grandi aziende, anche di costruzione, come è stato in Iraq, come è stato in Afghanistan, eccetera. Ma anche lì, cosa ci dicono i geostrateghi? Ci ricordano quello che abbiamo fatto nel 2011. Questi settori militari ancora si interrogano: ma perché siamo andati a bombardare Gheddafi? Con Gheddafi avevamo accordi straordinari. Leni era il principale interlocutore. Avevamo le aziende di costruzioni che facevano le autostrade, eccetera. Abbiamo creato il deserto, abbiamo creato il no Stato, abbiamo fomentato le migrazioni forzate, perché abbiamo avuto pure questo effetto devastante nella lettura loro sulle migrazioni. Chi ci ha guadagnato? In parte i francesi, in parte i turchi, in parte gli Emirati Arabi, eccetera, che hanno cannabilizzato quello che c'è delle risorse. Per cui, paradossalmente, questi settori si fanno domande che le forze politiche e sociali di centrodestra e di centrosinistra del nostro paese non si fanno. Per noi nessuno si è ancora chiesto se quello che si è creato nei drammi delle migrazioni, delle guerre delle migrazioni, non è che abbia un'origine, perché le migrazioni sono molto più complesse. Però sicuramente il 2011, la guerra in, perlomeno nel trattamento delle popolazioni di chi scappa e arriva in Libia, sicuramente il 2011 è una guerra di cui dovremmo assumerci la responsabilità e dire chiaramente che fu fatto un crimine. Perché cosa? Gheddafi era il peggior tiranno che c'è nel continente africano. Non l'abbiamo visto con i golpe che ci sono continuamente. Eravamo in Niger e hanno fatto il golpe in Niger. Eravamo in Sudan e ha fatto il golpe in Sudan le forze armate con cui noi abbiamo fatto gli accordi, abbiamo dato le armi, abbiamo fatto l'addestramento, la Guardia Nazionale del Sudan e la Guardia che ha ricevuto l'addestramento delle forze armate italiane, anche in funzione delle lotte ai migranti, cioè per ridurre i flussi migratori dall'Egitto verso l'Africa subsahariana, e hanno fatto il gol. Allora anche su questo ci sarebbe da interrogare. La domanda che fai tu, io la rivolgo: ma che cazzo ci andiamo a fare in Africa, quando poi i nostri interlocutori politici con cui dovremmo massacrare i migranti passano di golpe in golpe, di colpo di Stato in colpo di Stato, i migranti arrivano lo stesso, stiamo fomentando quelle dittature, eccetera. Andiamo a combattere una dittatura, però poi consentiamo di armare le altre. Ecco, queste sono le domande che dovremmo porci e che dovremmo porre. E se invece al contrario non è il caso di imporre sul dibattito un nuovo modo di pensare l'economia, che poi questo è quello che dovrebbe servire. Cioè imporre il dibattito sui modelli energetici, imporre il modello di dibattito su cosa produciamo, perché cosa produciamo e per chi produciamo e come produciamo. E invece no, siamo lì a inseguire, magari a dividerci anche al nostro interno, sposando una delle parti in causa. Io vi ringrazio, spero dico, veramente, cioè, di essere stato in questo senso utile, perlomeno una riflessione. Veramente, chiudendo, cioè, è necessario che il lavoro che fate siate voi veramente in questo senso, perché c'è bisogno di nuovi modelli, nuovi contenuti, nuovi veramente, cioè nuove dinamiche e anche nuove modalità di pensare le azioni di lotta. E credo che veramente quello che riguarda nuove tecnologie, informatizzazione, eccetera, sistemi, possa veramente essere un'unità finale.